giornata è appunto giovedì 5 aprile, si inizierà alle 19 e finirà dopo le 23. Sì. Venerdì 6 aprile dalle 18.30 l'ultima proiezione alle 21.30. Sabato 7 la prima proiezione alle ore 17, l'ultima con ottobre, quindi con il concerto alle 22.30. Domenica 8 aprile si inizia alle 17, l'ultima proiezione di Vivi New York alle ore 20. Lunedì 9 aprile, prima proiezione alle 20, però di calcolare che Noise dura 5 minuti, e l'altro corto, il ragazzo che lottava per i marciapiedi, dura 20 minuti e tutti come noi 77, quindi diciamo in totale la serata dovrebbe finire come proiezione intorno alle 10. Perfetto. Allora un abbraccio, in bocca al lupo e ci si vede lì. Certo, chiaramente lo dico così. E dillo, dai. Un po' in mezzo, sarai uno dei presentatori di queste serate. Ok. Serata, però. Benissimo. Allora, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie, grazie, un abbraccio a te. Grazie sempre alla Radio Rossa. Siamo di nuovo a parlare del Cineclub Alphaville con la nostra Patrizia. Ben ritrovata, parliamo del mese di aprile, ci dici un po' cosa bolle in pentola? Dunque, aprile è un mese in cui all'Alphaville bollono sempre in pentola cose particolari, sarà perché inizia la primavera, speriamo bene, speriamo che davvero inizi con un clima giusto, se con qualche raggio di sole. È un aprile, come sempre peraltro, in realtà per la nostra Svezia Via del Pigneto, di grandi autori, ma stavolta anche di corsa in bicicletta, di deliziose ragazze indipendenti, di Pierpaolo Pasolini e di alcuni compleanni. Perché dico questo? Perché il nostro mese di aprile parte in realtà il 28 marzo e finisce appunto il giorno del 25 aprile con la resistenza di Alphaville. Abbiamo in programma quattro rassegne, una più intuita, interessante, coinvolgente dell'altra, soprattutto la prima, tra l'altro, Kubrick First Time, è una rassegna dedicata all'incredibile Stanley Kubrick, che quest'anno fa un compleanno tondo tondo con la data di nascita. Kubrick nasce nel 1928, siamo nel 2018 e questa è stata una scusa, come spesso capita ad altri, per ricordare un grandissimo autore, soprattutto ancora prima un grandissimo fotografo, e quindi noi lo ricorderemo da mercoledì 28 marzo a sabato 31, ahimè, perché poi è Pasqua, avremmo continuato con molto piacere, però insomma lo ricordiamo lo stesso con una selezione di primi lavori di questo grandissimo appunto autore britannico, poi trasferitosi in America, ma insomma comunque è di origini europee. Lo ricorderemo con il dottor Stranamore, anche perché lì veramente io non avrei potuto fare diversamente, c'è uno splendido Peter Sellers che ci aspetta, ma lo ricorderemo anche con uno dei film più belli, secondo il mio punto di vista, del periodo della storia del cinema, Rapina a mano armata, che soprattutto nella parte finale insomma, di questo film ricorda molto, e questo sarebbe da scriverci un saggio, ma magari i nostri spettatori verranno e ci aiuteranno a trovare altri spunti, ricorda molto il finale del Tesoro della Sierra Madre, che è un film bellissimo e che poi verrà declinato in altri finali sempre di quella natura. Ecco, Rapina a mano armata riporta in un periodo storico come la fine degli anni 50, il finale stupefacente del Tesoro della Sierra Madre. Provate per credere che bisogna venire a vederlo sullo schermo grande, così come Il bacio dell'assassino, il mediometraggio di 64 minuti, Orizzonti di gloria, che non diamo all'Alphaville, un classico, un super classico, che non diamo all'Alphaville da troppi anni ormai. E domenica, l'ultimo e sabato, l'ultimo giorno, un documentario davvero molto significante, che chi non ha visto se sta a Roma, se non è in vacanza per Pasqua non può perdere, che è Roma 237 di Asher, un documentario che ci spiega, cioè tenta di spiegarci, in realtà ci incuriosisce, perché c'è una scena del labirinto in Shining, che significa il tipo di disegno sulla moquette di Shining, sempre del nostro Kubrick, ma se è vero o no, se c'è stato o no un allunaggio, perché, che significano i filtri ZAES usati per 2001 di Stelle dello Spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un documentario su Stanley Kubrick, che in realtà è un documentario sulla sua opera e che ci incuriosisce molto, perché ci sono dubbi apletici che comunque, lo dico da subito, non verranno risolti. Quindi è bello comunque vedere questo documentario per comprendere la grandezza della simbologia, appunto, kubrickiana. La rassegna successiva, quella, noi saremo chiusi a Pasqua, il 15 a martedì 3 saremo chiusi, ma riprenderemo mercoledì con grande gioia e con grande felicità, perché ci sarà una rassegna Movie Bike dedicata alle biciclette, una rassegna dedicata però alle biciclette insieme con 30 giorni in bici Roma, un'associazione di ciclisti che ama moltissimo utilizzare la bicicletta per vacanza, per turismo, ma anche per spostarsi in città e per lavorare, e noi proprio grazie a loro, e ce lo hanno richiesto, a noi faceva molto piacere, che già l'avevamo fatto la rassegna sulla bici anni fa, proporremo di nuovo questa rassegna sulla bicicletta citando Stas, che dice: un giro in bicicletta è una fuga dalla tristezza. E come da ritorno faremo vedere Pee-wee's Big Adventure di Tim Burton, un film incredibile, divertente, spiritoso, pieno di biciclette e di colori, ambientato negli studios americani di cinema, con il primo film, l'esordio di Tim Burton, che veramente è imperdibile, bicicletta compresa. E a seguire faremo vedere le biciclette di Pechino, una sorta di bel lavoro dedicato, appunto, quasi con un pensiero all'area di bicicletta, al nostro all'area di biciclette, un film del cinese del 2001, Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomet, uno dei più bei cartoni animati della storia del cinema, con le famose triplette, Il ragazzo con la bicicletta dei fratelli Darden, quindi più recente, del 2011. Faremo vedere Lemmy Stone, I Monellacci, uno dei primi film mediometraggi del grande François Truffaut, dedicato appunto a storie di ragazzi che vanno in bicicletta a dar fastidio a coppiette che si appartano. Imperdibile questo film, veramente imperdibile. Poi faremo vedere Ladri di biciclette domenica, e soprattutto domenica alle 18.30 un delizioso documentario legato al mondo delle biciclette e legato appunto all'associazione 30 giorni Bici Roma, che verrà proposto in versione originale con i sottotitoli. 30 giorni in bicicletta ci lascia quindi all'8 aprile, ma il 10 aprile c'è una cosa altrettanto curiosa, altrettanto importante da seguire, un aggiornamento sui documentari dedicati a Pierpaolo Pasolini, che da sempre noi ospitiamo all'interno della saletta, e la saletta sta lì a due passi da dove tutto successe, e da dove appunto Pasolini comunque passava, di lì dove Pasolini passava le serate e ha girato al Cattone, Mamma Roma e quant'altro, sui trattoni dell'acqua bollicante. Faremo vedere un documentario nuovo che peraltro ha vinto numerosi premi anche oltreoceano. Il documentario si chiama Pasolini e la terza generazione, il regista è Andrea Natale, un giovane appassionato di Pierpaolo Pasolini che incontra il ragazzo di vita Tarzanetto, e da qui si dipana una storia di ricordi, di memorie, di immagini e di appunto appunti pasoliniani che dovrebbero interessarci un po' a tutti e che penso, insomma, che ci piaceranno molto. Seguirà mercoledì, ci sarà chiaramente il regista e ovviamente l'ultimo dei ragazzi di vita, Tarzanetto. Poi faremo vedere, e questa è la seconda volta che quest'anno proponiamo, da mercoledì 11 a domenica 15 aprile, il grandissimo Akira Kurosawa. Lo riproponiamo perché non eravamo riusciti, Kurosawa ha una produzione cinematografica immensa, avevamo realizzato una prima rassegna dedicata a lui, e lì per un puro caso abbiamo incontrato un collezionista che ci ha portato ad Alphaville una serie di locandine originali giapponesi del periodo dei film selezionati, oltre che una serie di riviste e di libri cinematografici dedicati alla Akira Kurosawa, davvero da leccarsi i baffi. Quindi riproporremo quest'altro anniversario tondo, Akira Kurosawa morì 20 anni fa nel 1998, riproporremo appunto una manciata di suoi film, tra cui però alcuni grandissimi, no, forse nessuno è piccolissimo, dei film di Kurosawa: e Anatomia di un rapimento, Gastu Zala, Il trono di sangue, Rashomon, Rapsodia d'agosto e il mitico Doresca Denne. Chi non li avesse mai visti è pregato di arrivare di corsa in saletta, perché i film di Kurosawa si possono, tutti i film si vedono solo sul grande schermo, quelli di Kurosawa, lezioni. Poi ci sarà naturalmente un martedì dedicato a un laboratorio, Alphaville si occupa di laboratori cinematografici che sono full time, full immersion, dedicati ad un regista, la prossima full immersion sarà dedicata ad Alfred Hitchcock. Chi vuole sentire un sabato e una domenica raccontare Alfred Hitchcock nella sua attività professionale, nei suoi aneddoti e nella sua storia di vita privata, può appunto partecipare e iscriversi al corso su Alfred Hitchcock. Da mercoledì 18 però a domenica, questo di martedì, da mercoledì 18 a domenica 22, una rassegna molto contemporanea. La protagonista è Greta Gerwig, la moglie di Noah Baumbach, il regista, sceneggiatore di Wes Anderson. Lei è molto nota in quest'ultimo periodo anche per i Golden Globe, il suo film Lady Bird, interpreta sempre, ragazzi, il suo film è quello di Bird in senso proprio di regista, non film come protagonista. Qui invece la vediamo come protagonista di una serie di pellicole americane che descrivono una situazione giovanile, soprattutto femminile, molto vicina a quelle che sono le situazioni, le caratteristiche, le parti di vita rappresentate appunto dalle giovani che oggi vivono nelle grandi città, non solo in America. Greta Gerwig è un'attrice colorata, indipendente, divertente, intelligente, contemporanea. Abbiamo selezionato una serie di pellicole nelle quali lei ha lavorato come attrice, dedicate appunto anche ai colori di Wes Anderson, alle storie scritte dal marito Noah Baumbach e anche un po' anticipatrici di questa sua vena registica che si è poi palesata con la Riberta e che ha avuto un grande successo in tutto il mondo. Sono commedie contemporanee, piene di donne, piene di idee, piene di dubbi, si chiamano Mumblecore, sono le commedie mumble, come diceva Paperone dei Paperoni quando pensava, ecco, sono commedie di pensiero raffinate, ma anche sentimentali, affettuose, amichevoli. Ci sarà una serata dedicata a Liv Ullmann, che anche lei ha un compleanno impossibile da non rispettare, avendo compiuto 80 anni, la diva, la donna, la compagna, l'attrice feticcio di uno dei periodi storici importanti del grande Ingmar Bergman, del grande regista svedese, sarà protagonista insieme ad altri di Farabal, e ne racconteremo un po' di storia, un po' di aneddoti, martedì 24 aprile alle 21 in Salina. Concludiamo questa rassegna di aprile che mi sembra anche abbastanza piena di ciccia, mercoledì 25 aprile con la naturale serata dedicata alla resistenza, altro di quest'anno dedica alla resistenza una serie di letture, ma soprattutto un film di François Truffaut, l'ultimo metro di François Truffaut, un film del 1980 in cui la resistenza passa attraverso le tavole di un palcoscenico di teatro e il volto bellissimo, interessante e soprattutto capace in questo caso di Catherine Deneuve. Benissimo. Allora, un ringraziamento e un saluto a Patrizia Salvatori per la programmazione di questo fine marzo e tutto aprile. Un abbraccio, a risentirci presto. Ma naturalmente, auguro a tutti voi una buona serata, un buon pomeriggio, un buon tutto. A te Federico, a presto vederti. Ciao ciao. Ciao ciao. Siamo con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso per quanto riguarda le novità di questo marzo, anche se agli sgoccioli, però ci sono alcune segnalazioni a cui tenevamo particolarmente. Paco, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e tutti. Sono appunto felice di aggiornarvi un po' sulle novità di questo mese della piattaforma, in particolar modo su due progetti che abbiamo accolto in catalogo. Uno è il documentario Ieso Pazzo, fatto dal gruppo napoletano In Bilico Teatro, un film che fu fatto in crowdfunding, se non ricordo male, proprio su Produzioni dal Basso, e che tocca tra i vari temi la storia dell'ex OPG di Napoli e quindi indirettamente anche, se vogliamo, tutto quella nuova fase che si è aperta legata a tutto il panorama dei beni comuni e tutto quello che sta succedendo a Napoli anche dal punto di vista della del fermento culturale ed artistico. Ormai OpenDDB su diversi fronti sta stringendo delle bellissime relazioni con delle esperienze su Napoli. Pensiamo per esempio anche al progetto Terroni Uniti, che abbiamo accolto con gioia fin dall'inizio, quando nacque il progetto dell'ensemble di musicisti, che ormai è più di un anno che va avanti e continua la propria attività. E anche questo lavoro va a comporre un tassello di relazioni e di rapporti che a noi, insomma, ci piace molto pensare di condividere anche con tutta la nostra community. Napoli sicuramente in questo momento sta creando tantissime cose dal punto di vista sia artistico che culturale, vedi la musica, ma vedi anche appunto la filmografia indipendente, e insomma ci fa piacere fare la nostra piccola parte in questa fase. L'altra opera che vi segnalo invece molto importante è un piccolo libretto, in realtà è appunto l'aggiornamento di una versione precedente, che si chiama Stop al Panico. La seconda edizione riveduta ed aggiornata ed ampliata del vecchio manuale di difesa legale realizzato dall'Associazione di Mutuo Soccorso Legale, che è una realtà molto interessante ed importante, nata qui a Bologna ormai da un po' di anni, ma che negli ultimi anni appunto ha creato legami con l'esperienza in Val di Susa e tante altre esperienze in giro per l'Italia. È un piccolo manuale che fondamentalmente può aiutare tutte le persone ad avere anche, diciamo, attraverso lo strumento proprio del libro una maggiore consapevolezza degli strumenti legali, e sappiamo bene che viviamo in una fase storica non semplicissima, quindi è sicuramente un manuale molto importante. Tra l'altro, la cosa bella che vi segnalo è che la stampa di questo manualetto, che è di circa 150 pagine, con copertina di blu e quarta di copertina di zero calcare, è stata interamente autofinanziata da diverse realtà in giro per l'Italia che hanno sposato il progetto. Questo permette all'Associazione di Mutuo Soccorso di chiedere una donazione di 5 euro per il libro, che sapete bene essere una cifra molto bassa, ma proprio perché permette una maggiore diffusione, quindi va concepito a tutti gli effetti come uno strumento di enorme utilità rispetto a quello che è la nostra consapevolezza e il nostro rapporto con la legge e in certe fasi storiche con la repressione, che sappiamo bene essere presente e anche ciclica a seconda delle fasi. Sì. Vi segnalo anche inoltre che abbiamo in qualche maniera risegnalato attraverso la nostra newsletter il film Bink Set sotto il confine di Luigi D'Alife, film che immagino conosciate già molto bene, ma che in questa fase, in queste ultime settimane, anche visto le notizie che arrivano dalla Siria e dalla Afrin in particolare, sta vivendo una seconda vita, e ovviamente non lo segnalo per fini, tra virgolette, pubblicitari, perché non è questo il punto, però il fatto che stia avendo una seconda vita è la dimostrazione, di nuovo, per l'ennesima volta, che il documentarismo indipendente in certi casi riesce a colmare il vuoto che i media mainstream creano su certi temi, su certe storie, su certe notizie. Il tema di quello che sta succedendo ad Afrin si conosce bene, perché per fortuna c'è stata una grossa mobilitazione anche in Italia. Detto ciò, e qui lo dico più da documentarista che da una persona che fa parte di una piattaforma digitale, il documentario indipendente sempre di più riesce a raccontare e a mettere in luce questi fatti, questi avvenimenti, queste storie, e spesso riesce a farlo in maniera molto più efficace del mainstream, e questo secondo me è un punto di partenza su cui ragionare, perché se tutta la faccenda, tutto quello che sta succedendo in qualche maniera in Kurdistan, in Rojava e in quei territori più ampi, è l'ennesimo caso che dimostra quanto gli strumenti anche a disposizione che abbiamo per informarci, per condividere notizie, stiano radicalmente cambiando. E forse un margine per pensare che gli strumenti possano essere anche a disposizione e gestiti dal basso, evidentemente c'è. Sì, quindi sì. Ecco, ci tenevamo molto a risegnalare questo film, che in realtà è in tournée da più di un anno, quindi ha già fatto tutto un suo ciclo, e che adesso, grazie anche alla disponibilità del regista, ne sta affrontando un secondo, perché c'è fame di capire cosa sta succedendo in quelle zone. Oh, Paco, un'altra segnalazione mi sembra doverosa rispetto a Non aver paura. Esattamente. Non aver paura è un documentario molto bello e non è uscito quest'anno, è uscito già da qualche anno, ma ci ha fatto molto piacere accoglierlo perché la regista è Cristina Monti, che assieme a Paolo Rapalino ha già altri lavori in piattaforma, come il più famoso La Supra, che è un lavoro che probabilmente avete ospitato in trasmissione. E è un lavoro dedicato alla memoria delle partigiane, principalmente legato al gruppo piemontese dei comitati di resistenza, e va a comporsi all'interno della nostra sezione dedicata alla memoria storica, che sappiamo bene essere molto importante, soprattutto in queste settimane dove sembra che tante persone se lo stiano un po' dimenticando. Sì. Per cui la funzione di una piattaforma come la nostra è anche quella di costruire o mantenere, in questo caso, una memoria storica viva. L'idea di accogliere un lavoro come questo, che non solo parla di resistenza, ma parla di resistenza al femminile dal punto di vista appunto della lotta di resistenza e di questi gruppi di donne che si muovevano appunto nel piemontese nel periodo della resistenza al nazifascismo, ci è sembrato una cosa molto importante, nonostante appunto il film sia un film che ha già qualche anno, ma che non ci dimenticheremo mai di non ci dimentichiamo mai, diciamo, l'importanza di questo tipo di diffusione e di supporto alla diffusione di film come questi. Chiuderei con una breve citazione di un lavoro che abbiamo ospitato a più riprese, ma che comunque mantiene anche questo una sua attualità, che è Pigs. Sì, esatto. Pigs è un film documentario che l'anno scorso fu considerato un caso, diciamo, perché travolse tantissime sale cinematografiche con un sold out dietro l'altro. Noi siamo sempre molto attenti a usare la parola caso, in più di un'occasione abbiamo rivendicato il fatto che forse non si tratta di casi, ma si tratta di una nuova fase dove il cinema indipendente sta acquisendo in qualche maniera una sua forza e un suo pubblico sempre più ampio. E finalmente, appunto, da un mesetto a questa parte il film è arrivato sulla piattaforma, sta ricevendo tantissime donazioni, perché comunque è un film che ha sicuramente una seconda vita anche su quello che riguarda l'on demand, e che ci aiuta in qualche maniera a entrare in quella fase dove si costruiscono delle nuove narrazioni sul nostro presente, soprattutto legato a come la nostra quotidianità è stata impattata dalla cosiddetta crisi. Se ci pensate, nel senso, proprio perché è un fenomeno odierno, le narrazioni cinematografiche, letterarie e quant'altro iniziano adesso ad emergere, ed è un percorso assolutamente normale. Il punto di forza assoluto di questo film è che riesce a coniugare una parte di analisi teorica sulla macroeconomia, perché poi ci sono diverse interviste anche, c'è anche dentro l'intervista a Chomsky e altre persone, diciamo, che danno un quadro più macro di quello che è stata la situazione della crisi economica di questi anni, dall'altra parte agganciandolo e legandolo alla storia di una cooperativa che si chiama Il Pungiglione, e di cosa è successo a questa cooperativa una volta che i fondi che riceveva sono stati tagliati. Sì. Quindi la cosa molto bella è questo continuo ricamo tra la teoria e l'atto pratico, perché poi quello che giustamente interessa alle persone è concretamente questa crisi cosa significa, e concretamente questa crisi cosa ha portato nelle nostre vite o cosa ha tolto alle nostre vite. Bene Paco, allora ci salutiamo, ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti. Ricordiamo, queste erano le novità per il mese di marzo di Distribuzioni dal Basso. Ricordi tu i riferimenti web? Certamente, tutto questo e tanto altro lo potete trovare sul nostro sito opendb.it, e vi consiglio caldamente anche di dare un'occhiata al nostro blog, che da qualche settimana abbiamo rilanciato, dove settimanalmente scriviamo recensioni, curiosità, riflessioni, e parliamo insomma anche un po' di prospettive di ragionamento legate spesso poi ai titoli che stessi che ospitiamo in catalogo. Un abbraccio Paco, a presto. A presto, a voi.